Buonasera Presidente. Quando buonasera lei... Marino, come sta? Col baffetto oggi, guarda che fa un teccaruccio con sta cravatta. Grazie. Che c'è da dire alla cravatta di Bartoletti? Poi la regalo io la cravatta. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La partita di domani cosa conta nell'annata? Direi innanzitutto sono contento delle parole che ieri ha detto il presidente, che una partita non può giudicare o pregiudicare una stagione. Questo vuol dire che fino a questo momento abbiamo tutti insieme lavorato bene. È normale che ora siamo alla stretta finale. Noi siamo qui e dobbiamo e vogliamo passare il turno di Champions. Black stripe. Quando ci sono queste partite in questi stadi contro delle squadre che hanno una qualità offensiva come quella del Dortmund, devi mettere in preventivo che tutta la fase difensiva sarà sollecitata parecchio. Però l'importante è, quando ce ne sarà l'opportunità, anche di poter ripartire o punzecchiarli con delle azioni magari d'attacco ficcanti. Per quanto riguarda la formazione di domani ho ancora dei dubbi, devo decidere, valutare se giocare così almeno vi tolgo il dubbio o a 3 o a 4, che è la cosa che vi preme a tutti voi, se si gioca a 3 o gioca a 4 questi benedetti numeri, quindi domani, entro domani dovrò decidere, perché poi domani sera giochiamo, quindi. Allegra quest'ora avrà già deciso. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Naturalmente, come avete sentito, vi aggiorneremo su ciò che sta accadendo a Tunisi strada facendo nel corso di tutti i convocati. Comunque, tutti i convocati. 800240024. Borussia Juventus, gufi contro Juventini oggi, come sempre succede, che poi domani in Europa League le parti si invertiranno. Come finisce per voi? Pronostici. 800240024. Io tendenzialmente farei tipo per la Juventus. Pardo, ci sei? Eccolo. Ci sei? Mi metto in attesa. Io e non ti vedevo, non vedevo la scritta Pardo, ok, linea 6. Mi sento solo. Come va? Molto bene. Sto che sta volando per Roma Fiorentina, quindi sì. Siamo vecchia conoscenza di Radio 24, vecchio e giovane, vuoi dire qualcosa alla nazione? Un abbraccio a tutti. Manca Viale Monterosa? Meglio Cologno o Viale Monterosa? Non rispondo, meglio Cologno. Ma come molto meglio Cologno? Salomonico pareggio, no. Speriamo che stasera comunque speriamo che la Juventus passi, perché sennò da domani si comincia la stagione del mercato, se il 19 marzo domani, stagione del mercato che si apre, Mihajlovic al Milan nell'ultima voce, Mazzarri alla Roma è la penultima, oppure faremo un giorno in pretura, perché oggi è stato anche arrestato Manenti, molto pseudo presidente del Parma, accusa pesante, reimpiego di capitali illeciti, peculato, autoriciclaggio, e Lucarelli che ha detto queste cose. Mi sento di fare sulla dichiarazione, se non che ogni giorno prendiamo bastonate in faccia, parlo di Parma città, tifoseria, squadra, quindi mi auguro che prima o poi tutto questo finisca, perché onestamente non ne possiamo più. Cioè, praticamente in soldoni, poi è una vicenda complicata da spiegare, ma Manenti è stato arrestato perché avrebbe tentato di immettere nel Parma soldi, con l'aiuto ovviamente di complici, attraverso una truffa legata alle carte di credito, poi con aspetti molto dettagliati e molto, molto più complicati, però però questa è la storia. Con Pierluigi Pardo subito dopo il traffico parleremo anche di Champions League, naturalmente, della Juventus e di quello che abbiamo visto ieri sera con l'Arsenal che ha sforato l'impresa ma è passato il Monaco, ha vinto 2-0, con l'Atletico Madrid che è passato ai rigori e soltanto ai rigori con il Bayern di Leverkusen e Simeone che poi ha strizzato l'occhio all'Italia, ma non è vero, Simeone? Io lo dico, sono sicuro che questo come allenatore è lungo, almeno aspetto che sia lungo. So tranquillamente che tornerò in Italia perché ce l'ho tanto del calcio italiano, ho imparato moltissimo, credo che anche nel mio gen come allenatore ho molta cosa del calcio italiano e sicuramente un giorno tornerò in Italia, quello sicuro. E infatti poi la sorellina di Simeone, che è la sua agente, ha detto che sta per firmare con l'Atletico Madrid per altri 6 anni fino al 2020. Quindi Simeone torna, state certi, magari al Milan. Traffico. Penetrano il buio, ispirando terrore e superstizione. Questi guerrieri spaventosi sono i gufi, la morte con le ali. Convocati. Abbiamo ancora una pratica che è il campionato ancora da chiudere nonostante questi 14 punti di vantaggio che sono molti a 11 giornate dalla fine, e abbiamo anche una partita di Coppa Italia dove abbiamo ancora le possibilità di ribaltare il risultato e quindi andare in finale. Quindi credo che al momento i risultati e gli obiettivi di arrivare a questo momento della stagione e giocarci di tutte le 3 competizioni, ci siamo. Questo Allegri, e poi ci sono anche i gufi che aspettiamo naturalmente a volteggiare. 800 24 00 24 è il numero verde. Intanto penso che tra poco daremo anche nuovi aggiornamenti su quanto è successo a Tunisi. Io già vi dico, non c'entra nulla, però la cronaca in ultima ora è vera, Dolisi si avrebbe rivendicato questo attacco al museo. Pierluigi Pardo, sei ancora lì, vero? Sì, io sono qui da tempo immemore. C'è con noi Massimiliano Nerozzi, Max, inviato della stampa, accampato al Westfalen Stadium. Ciao Max. Ciao, buongiorno a tutti. Che sensazioni hai? Domanda banale, lo so. Che ci saranno molti gol. Secondo me hanno ragione Klopp e Allegri. Secondo te, Pier? Sì, ci sta. Beh, all'andata avevamo beccato il risultato, giusto? Mm-hmm. Io nell'altro, mi pare, no? Risultato esatto, sì. E secondo me lo becchiamo anche al ritorno, cioè almeno io dico che vanno ai supplementari. Io dico 2-1 supplementare anch'io. Allora, non ci siamo messi d'accordo. No, non ci siamo messi d'accordo, però anch'io. Che barba, che noia. E poi supplementare. E poi supplementare. Supplementare. Io dico Juve. E anch'io dico Juve. Non so se supplementare. Secondo me no. Io dico 1-1, però. Certamente una partita con gol. Ma secondo voi la assenza di Pirlo ormai certificata, poi Allegri avrà deciso se giocare con la difesa 3 o a 4, secondo me l'aveva già deciso da tempo e ci ha ballato un po', ci ha danzato un po', l'assenza di Pirlo, Pier, in questa partita può paradossalmente essere un vantaggio visto che si giocherà, o almeno il Borussia giocherà certamente a ritmi molto elevati? Come direbbe Moghini, se la poniamo su questo piano siamo nell'ambito dell'eresia, della bestemmia. Poi è chiaro che Pirlo ha delle qualità eccezionali e quando non c'è lui ce ne sono altre di qualità, secondo me un po' meno eccezionali in assoluto, ma che nello specifico di una partita alla battaglia possono anche essere molto utili. Sai, Pirlo è uno che ha il colpo di genio, se lo può avere in qualsiasi momento, se lo può regalare, e c'è più probabilità che se lo regali lui che Pereira, tanto per essere chiari. Però a me quel centrocampo lì con Vidal, Marchisio, Pogba, Pereira mi piace, specialmente un centrocampo sì, pronto per poter guerreggiare, per cui è chiaro che rinunzi alla possibilità dell'invenzione. Il calcio è un gioco di episodi, è un gioco che può essere deciso da una singola idea, da una singola intuizione artistica, e quindi è chiaro che questo tipo di assenza potrebbe pesare. Però io la Juve la vedo molto competitiva, insomma, e credo che la chiave fondamentale sarà fisica, sarà legata al ritmo, nel senso che se il Dortmund corre come sa correre ci vuole una grande partita, ecco. All'andata secondo me la Juve ha dimostrato di essere tecnicamente superiore, sì, e forse poteva fare anche il terzo gol, però insomma secondo me le possibilità ci sono tutte. Certamente poteva non prendere l'unico che ha beccato con quell'infortunio di, di Chiellini. A proposito di difesa, Max, ha deciso Allegri 3, 4, 5, 6, 7, 8? Siamo sulla difesa 4, nel senso che stamattina non è stata fatta la rifinitura fuori, sono stati in albergo i giocatori. A ieri sera pare che non avesse ancora deciso davvero, però forse tu hai delle fonti molto meglio delle nostre, perché hai detto che lo sapevi da tempo. No, era una semplice supposizione. Mi ha telefonato Panucci da Livorno. Ah, ok. No, a ieri sera si stava a 4, nel senso che a me risultava che Pereira, Allegri avesse parlato con Pereira dicendo che giocava, quindi siccome si gioca Pereira il modulo può essere solo uno. Però è vero che la tentazione era grande con Barzagli, l'unico dubbio è veramente di natura fisica, nel senso che Barzagli ha giocato un'ottima partita a Palermo, però insomma ormai si sa nel mondo dello sport che spesso quando stai fuori tanto la prima partita vai bene, non so, nel basket fai 30 punti magari, poi la seconda e la terza puoi avere qualche problema, e come dicevi tu prima, i ritmi alti che ci saranno magari è un rischio per uno che appunto i muscoli a certi livelli non gli fa funzionare da 8 mesi e mezzo, quasi 9. Sì. Lo chiedo a tutti e due, potrebbe essere davvero, come ritengono molti, Morata l'ombra del partito? Piero? Beh, è il giocatore più caldo in questo momento, addirittura più caldo di Tevez, che fa sempre pienamente il suo dovere anche a Palermo, ma in questo momento lascia copertine e titoli di giornale a Morata, perché Morata in questo momento ha quella capacità eccezionale che hanno gli attaccanti in certi momenti di accendersi, tra una questione fisica e psicologica prima ancora che tecnica. Sono attaccanti che in determinati momenti della loro carriera, per esempio sta succedendo a Toni, no, con i 7 gol nelle ultime 6 partite a Verona, succede a Higuain, hanno dei momenti, delle situazioni, delle strisce di risultati che li portano a essere particolarmente temibili. Questo è il momento di Morata, non c'è alcun dubbio. Poi magari la partita la decide a Tevez, che ha un'esperienza internazionale di tipo diverso, però io anche qui mi sento molto garantito, nel senso che la Juve arriva a questa partita con un quasi fuori classe, se mi passi l'espressione, per Tevez, perché secondo me è proprio un metro dietro ai fuori classi assoluti, quelli alla Ibra, alla Cristiano Ronaldo, alla Messi, un giocatore di livello internazionale, l'unico secondo me assieme a Pogba e a Higuain del nostro campionato, o perlomeno questi sono i primi tre, e Morata è un attaccante buono di prospettiva che arriva con tanta fiducia a questa partita, quindi il tandem teoricamente eccezionale. Poi Max prende sempre la porta in questo momento, Sì, prende sempre la porta, e poi Borussia rispetto agli anni scorsi, almeno la copertura di centrocampisti, Morata è uno che va uno contro uno anche da lontano e i difensori del Borussia lo soffrono molto. Sulla decisiva, anche parlavi prima di Pirlo e Marchisio, io penso che sia a lunga uno svantaggio, nel senso che Pirlo ha già saltato 14 partite, secondo me sarebbe stato un pochettino forse fresco. Marchisio è un super giocatore, sarebbe ideale per questa partita, secondo me da un mesetto a questa parte è spremuto. Perché è quello che ha giocato di più, anche se a Palermo devo dire che nel secondo tempo ha dato segni di vita, però è chiaro che stasera ci vuole un grande impatto fisico. Marchisio ha le caratteristiche per starci dentro, anzi per fare forse meglio di Pirlo da un certo punto di vista, però bisogna vedere se avrà la benzina necessaria. Ma sai, io mi aspetto stasera una Juve molto diversa rispetto agli exit poll del campionato. Beh, il campionato è finito. Sì, appunto. Ed è finito da prima di Roma-Samp l'altro giorno, quindi è chiaro che la Juve adesso sta gestendo, già un po' di suo l'aveva fatto, no? Anche quando ancora la Roma era in una distanza teorica per poterla impensierire, ma ne abbiamo parlato anche in passato, ci sono state varie volte la sensazione abbiamo avuto che la Juve, non ti dico che rallentasse apposta, ma insomma penso al pareggio di Udine arrivato dopo Roma-Empoli della sera prima, che abbia fatto dei ragionamenti, insomma, dopo Roma-Parma, fatto delle partite nelle quali, cioè la Juve di Allegri quest'anno si è gestita, diciamo che l'unica vera sorpresa fin qui e l'unico vero scivolone pesante è stato quello in Coppa Italia, perché è chiaro che in Coppa Italia adesso ci vorrà un'impresa, ma per il resto è chiaro, ma anche lì ha usato tanto turnover Allegri, forse come non mai, forse pure troppo. Saluto Massimiliano Nerozzi, inviato della stampa. Ciao Max, grazie. Ciao a voi, buon pomeriggio. Grazie davvero. Pier, tu stai lì, che adesso diamo la linea a Marta Cagnola che ci aggiorna su Tunisi. Tutti convocati. Secondo Michele che scrive sarà la serata di Vidal. Secondo Buddy, Pogba senza Pirlo si scatena e la Juve stasera vince. Secondo Antonio da Napoli, non secondo Antonio da Napoli, a casa di Antonio da Napoli, questa sera tutto in giallo. Vestiti, cena con pollo giallo e patate, grandi gialli del Borussia che si mangeranno in senza colori, scrive Antonio a proposito di Gufi. Tra l'altro la maglia gialla, Carlo, ti ricordi? La scorsa era la... Sì. La scaramanzia del Napoli. Sì, certo, ricordo. Altri 10 minuti con Pierluigi Pardo, che poi sta parlando dal signor Telese, credo, no? Sì, stasera per parlare stasera del Parma, guarda caso, nel giorno in cui sono scattate le manette, come aveva evocato il tuo amico Canessa. Abbastanza Canessa. Sospetta questa telefonata, questo arresto nel giorno della puntata di Matrix. Secondo me, sai che me l'ha detto anche Giorgio De Luca, mi ha detto, ma Teresa ha avuto la soffiata o ha avuto solo un gran culo? Direi la seconda. No, vabbè, poi non è culo, ma lì è una vicenda, però posso dire, facendo una battuta e ovviamente partendo dal presupposto dell'assoluto innocentismo, e insomma siamo in una patria che garantisce il diritto fino all'ultimo grado di giudizio, quindi insomma Manetti al momento è ancora ovviamente innocente fino a prova contraria. Detto questo, almeno cominciamo a capirci qualcosa, nel senso che sinceramente dal punto di vista proprio di logica e di buon senso tutti ci chiedevamo cosa stesse cercando Manetti, almeno se venisse confermato questo tipo di drammatico scenario, vorrebbe dire che c'era un'idea dietro, un disegno dietro, ovviamente. Sì. Aspettare, e ribadisco la presunzione di innocenza, ci mancherebbe altro. Sì, una follia. Secondo, tanto per dire due parole, secondo la ricostruzione della Procura di Roma, che ha operato l'arresto di Manetti e di altre 21 persone, si sarebbe rivolto a tale Angelo Augelli, uno dei capi di un gruppo specializzato in frodi informatiche transnazionali da decine di milioni di euro. Stando alle accuse, il piano era utilizzare 4 milioni e mezzo di euro ottenuti con carte di pagamento clonate e conti correnti hackerati, per poi farli arrivare nelle casse del club come corrispettivo per l'acquisto di biglietti, merchandising e sponsorizzazioni inesistenti, eccetera, eccetera. Ciro Napoli, buongiorno. Carlo, hai sbagliato il nome, mi chiamo Gufo da Napoli. Gufo, Ciro Gufo da Napoli. Ah, Ciro Gufo. Ciro Gufo. Dopo Ciro Muro. Se vuoi vi faccio sentire il verso per cui stasera noi ci vediamo la partita. E certo che voglio sentire. Com'è? Cioè per 90 più supplementari fate così? Sì. Capito, Pardo? Sì, sì, 90 più supplementari, eh. Ci vuole però più voce di te quando fai. La linea, lo sapete, è completamente laica, cioè ognuno fa quello che gli pare. Ma certo. Che, razionalmente parlando, la speranza è che la Juve passi e che domani, l'altro giorno. Pronto? Sì, no, siamo. Credo fosse Ciro, gli è andata giù la voce. Sì. No, e addirittura l'altro giorno in telecronaca ho fatto un epic fail dicendo speriamo che passino tutte e cinque italiani in Europa League, non è possibile perché due si scontrano tra di loro, è ovvio che per è quasi banale la partita. Ma magari la ripescano. Sì, esatto, per lo stato di salute del nostro calcio, per l'interesse complessivo, per la nostra passione, per insomma sarebbe bello riuscire ad andare avanti. Quindi bocca al lupo ovviamente a 6, premesso che poi una delle due, ovviamente Romagna all'Olimpico, per forza dovrà essere eliminata. Sì. Simone Piacenza, buongiorno. Buongiorno, salve. Innanzitutto il piacere immenso di sentire la sigla della vostra trasmissione mentre si accende la macchina, è proprio un grande piacere, come siamo over the top, over the top. Mozart is no one. Is nothing. Is no one. Alboreto is nothing, grande citazione. Prego. Insomma, la Juventus Borussia è una grandissima squadra, mi pare che insomma questo mettere un po' le mani avanti di Agnelli, di Reatti, la stagione non si pregiudica. Io voglio dire, spero che la Juve, come tutte le italiane, vada avanti il più possibile, anche perché le inglesi vanno male, le tedesche comunque ci sarà solo il Bayern. Inglesi male, inglesi un disastro, non male. Disastro, quindi però insomma la Juve mi sembra che abbia un po' un atteggiamento quasi scaramantico, dire se usciamo non è che è un disastro, però insomma dovrebbe cercare di andare a fare una bella partita. E poi volevo dire che io sono tifoso della Juve, mi spiace molto per la Roma, non penso che i giocatori meritino insomma quello che sta accadendo, volevo chiedervi se questo sciogliersi un po' al sole sia fatto anche di vivere sempre in un ambiente che estremizza tutto, cioè vincono tre partite e sono i più forti al mondo, ne pareggiano un po' e sono pessimi. Insomma, a me ha fatto molta tenerezza Pjanic ieri in quel video, onestamente, cioè, quello dei carcinacci, sì, che abbiamo fatto quello sentire. Dei carcinacci, insomma, no, sembra che Pjanic sia un giocatore di qualità assoluta, ecco. E ma a Roma era sappiamo, un cagnolino bagnato, poverino. No, ma Pardo lo sa meglio di tutti noi, e ne abbiamo parlato anche ieri. Roma, no, soprattutto l'ambiente giallo-rosso ti trita, non aiuta, perché ti trita nel bene e nel male. Tutto nasce da un amore incondizionato, quindi nasce da un sentimento che è solo bello, che però sappiamo in certi momenti ovviamente diventa un eccesso di passione, diventa un eccesso di entusiasmo, insomma. Però sembra un po' i nazionali prendono in giro i romanisti perché ogni estate si sentono campione d'Italia. Questo è uno dei tormentoni classici che succede. Un po' è vero, cioè un po' è vero che il tifoso della Roma è un ottimista di natura, nasce ottimista di natura. Però non ti sembra un po' un remake della stagione di Ranieri? Cioè di quando venne sfiorato lo scudetto, perso in casa tragicamente, sì. Senso sportivo della Sampdoria, e poi l'anno dopo fu un altro film. Ma guarda, ti dico addirittura che se tu cerchi due stagioni consecutive di grande continuità della Roma non le trovi. Nel senso che se i due campionati che la Roma ha rischiato di vincere sono stati nel 2008 e nel 2010. In mezzo c'è stato un campionato di medio cabotaggio. Il 2011 è andato malissimo, come ricordavi tu, con il crollo da febbraio in poi, dopo un pareggio, se non sbaglio, col Brescia in casa, cominciò il tracollo. È chiaro che non è facile gestire la pressione, in più forse c'è stata anche una sopravvalutazione, ma in questo mi ci metto anch'io, ci mettiamo anche noi, insomma, perché la Roma ha fatto cose personali, cioè non è che sia stata una specie di abbaglio collettivo, e la Roma giocava. Ha giocato una grandissima stagione, il calcio migliore d'Italia. E quest'anno sembrava meno bella, ma comunque fino a due mesi fa era meno bella, ma era a portata di tiro dalla Juve, con più cambi rispetto a un anno fa, e quindi sembrava possibile che facesse cose eccezionali. Nessuno poteva immaginare un tracollo di questo tipo, non ci sono dubbi. Comunque sì, che l'ambiente sia un elemento di complessità, ripeto, in assoluta buona fede, tutto nasce dall'amore. Tutto nasce dall'amore, non è che qualche volta può far molto male, può far molto male, quando porta a esaltarsi tanto, e quindi poi improvvisamente a vedere deluse le speranze, a creare delle aspettative sulla squadra quasi esagerate. C'è anche da dire che la squadra quest'anno, cioè vuol dire Garcia, dopo di Roma, ha detto: sono sicuro che vinceremo il campionato. Quindi in qualche modo, con questo tipo di atteggiamento ambientale, Garcia ci ha anche giocato, ha anche provato a utilizzarlo per averne un vantaggio, ed è andato male. Non ci è riuscito. Pier, ti lascio prendere l'aereo, tanto qua siamo di nuovo agli aggiornamenti. Con le cappelliere. Sì, che è l'unico posto al mondo dove la parola cappelliera ti è data. A casa c'è una cappelliera. L'aereo arrivi e riponete gli oggetti nelle cappelliere. Nelle apposite cappelliere. Saluta questa tutto l'equipaggio con grande affetto, soprattutto le hostess, sì, come la pronostico. L'hostess mi ha confermato che questa è un'apposita cappelliera. È un'apposita cappelliera, quindi vai tranquillo, riponi il bagaglio a mano nell'apposita cappelliera. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio. Approfitto della presenza di Domenico Navarese, che è in linea. Cioè, devo dare gli aggiornamenti? C'è linea agli aggiornamenti? Non ancora. Va bene, allora andiamo, navighiamo un po' a vista. Approfitto della presenza di Domenico Navarese, che è in linea, per farvi sentire quello che promette di essere un nuovo grande personaggio. Domenico, stia lì, eh? Tifoso del Varese, Domenico? Purtroppo volevo parlare anche di questo concetto, sì. Sì, allora, è l'epoca dei presidenti in gabbia, arrestato Manenti, Gozzi dell'Entelle, nelle notizie di ieri, ma anche dei presidenti showman, no? Il prossimo Ferrero potrebbe essere Pierpaolo Cassarà. Sbiriguda, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Gli uomini vivono con una logica, che è quella razionale, del bene e del male. Il bene, quando sopraggiunge, ci fa sorridere. Il male, come nel mio caso, quando mi ha raggiunto, mi ha solo determinato a una conservazione di me stesso. Guardandomi chi sono, mettendo sempre avanti il mio essere, voglio la vittoria. I tifosi lunedì devono tornare a casa senza voce. vogliamo cori ultrasonori, vogliamo cori al genoma esplosivo, vogliamo le curve, non sto a dire quali, lo sanno loro, con gli shot, con gli scoppi, con le bordate. Diamo quello che siamo, il valore, valore del potere del calcio a Varese. Il mio ragionamento è semplicemente storicistico, no? Applicato. I miei preferiti, i miei idoli sono quelli classici che voi benissimo conoscete, no? Da Platini, Michel, l'altro come si chiama? Pelé, Maradona. Maradona, altro che un altro di quelli che ha avuto il male dietro. Ma che cos'è? Che cos'è? È il grande valore. Un giorno mi piacerebbe riceverlo anche a Varese. Vabbè, Domenico, mica male, No, infatti. Allora, prima di tutto grazie di tutto per la convocazione e complimenti per la comunicazione. Grazie a lei. Naturalmente io mi permetto di chiamare, ma non dire dove lavoro, perché lavoro nel settore, nel mondo del calcio professionistico, e parzialmente anche il mio lavoro, se non pienamente. Sì. E infatti il mio dubbio era questo, un confronto con voi, che altro naturalmente tutti gli iter che si sentono, tal Parma che è un po' l'eccellenza attuale sui nomi e sui giornali di tutto, tal Monza che naturalmente da tempo che si sa che questo soggetto è scappato, si è nascosto, da soggetti esemplari come quello del Varese di ieri, ahimè, che si espone con umiltà, pur essendo stato radiato dall'albo degli avvocati, è arrivato all'IRPEF, cacciato i soldi, ha sanato la bocca di qualcuno, e quindi adesso sembra che l'iter della giustizia o dell'intervento in ambito amministrativo economico nel mondo del calcio deve prendere rami ed approfondimenti un attimino diversi da società a società. Sì. Il Varese si sa che purtroppo, conoscendo i giocatori, conoscendo l'ambiente, hanno difficoltà a allenarsi in varie strutture, hanno difficoltà comunque a sanare i debiti, sia per andare a mangiare pre-gara, sia per allenarsi in modo adeguato, sia per avere una stabilità, per riuscire a recuperare gli infortunati, e quindi di conseguenza è arrivato il personaggio, paragonandosi parzialmente a dire ok, Maradona ha fatto lo sbaglio, viene praticamente ha trovato la sua strada proiettiva e adesso faccio anch'io così. È un attimo. Vabbè, adesso Domenico, sì, qui al di là delle parole, io credo che la mia domanda è come si può permettere a personaggi, non mi sto riferendo al presidente Varese che non conosco, però a personaggi come Manenti di entrare nel mondo del calcio. Cioè, nessuno controlla, nessuno sapeva, e caschiamo tutti dall'albero delle pere. Restituisco la linea a Marta Cagnoli invece per un aggiornamento da Tunisi. Tutti convocati. Io vorrei aprire una digressione tra gli argomenti calcistici che riprenderemo dopo le 15. Saluto e ringrazio Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Buongiorno professore. Come sta? Buongiorno a voi. No, perché sta bene, ancora un po' nel fuso australiano. Nel fuso australiano, tra un po' ti tocca quello malese, quindi. Cina. Ah, vai direttamente in Cina. Vado in Cina, salva una collega. Sempre che nel frattempo succeda qualcosa, perché ne stiamo leggendo più che sul Festival di Sanremo, su questo avvio della Formula 1, E sì, Ecclestone, sì. Come scrivi tu oggi sul Corriere, che denuncia, che vuole tenere nel gruppo la Red Bull, che vorrebbe uscire, e dice la Mercedes l'ha aiutata la FIA. Poi c'è Hamilton che dice vabbè, vogliono uscire, no, si cerchino della gente migliore. C'è Rosberg che ha iniziato una dialettica via Facebook con Vettel. Ogni giorno ne succede una diversa. Il fatto è che le macchine sono sempre di meno. Ma anche perché poi si permette una figuraccia come quella della Manor, che si sapeva che non sarebbe stata mai pronta per il debutto, si è permesso che arrivasse a Melbourne e facesse quella sceneggiata di far finta di andare in pista due vetture che poi sono rimaste serenamente nel box. In compenso ci sono presi il gettone di presenza, quindi c'è anche il sospetto che qualcuno lì abbia fatto un po' il furbo per far guadagnare quattro soldi a questi signori che hanno creato una bad company, sì, per scaricare tutti i debiti del progresso e aprire una nuova società, un po' come ha fatto l'Italia. In realtà noi dovremmo stare zitti perché siamo stati un po' i campioni di questa cosa qua. Speriamo che non sia come il Parma. Comunque, insomma, vabbè, adesso vediamo se Stamanor che comunque è una scuderia di tradizione, nel senso che la Manor come marchio è un nome associato al racing, perché nelle categorie minori è una marca anche importante. In Formula 1 purtroppo ha sempre stentato, e vediamo questa nuova avventura come procederà, se si rilancerà su basi differenti a quelle che abbiamo visto a Melbourne. Poi a Melbourne sono stati anche degli episodi sfortunati, Bottas che ha la botta alla schiena, sì, e che quindi non può correre, è un caso che vabbè, insomma, è imprevisto. Poi ci sono stati incidenti in gara, i motori che sono subito saltati, quelli, problemi meccanici, problemi di Magnussen e di Atta ancora prima che schierasse la griglia, e quello sicuramente invece denuncia una certa fragilità strutturale di queste power unit, che insomma dopo un anno ancora non danno tutte quelle garanzie di tenuta e di affidabilità dei vecchi motori attirati. Sì, ma che senso hanno, Flavio, che senso hanno queste dichiarazioni di Ecclestone? Cioè ha detto la Mercedes è avanti con le power unit perché aveva sostanzialmente delle talpe all'interno della FIA. Più o meno il concetto si può immaginare sia quello. D'altra parte, insomma, questo è anche un po' il segreto di Pulcinella, cioè si è sempre ipotizzato, ripeto, senza basi fondate, per i soliti gossip che veleggiano all'interno del paddock e del mondo della Formula 1, che comunque questi della Mercedes qualche dritta per impostare il lavoro in un certo modo l'abbiano avuto, perché c'era tutta la convenienza della Formula 1, perché la Formula 1 appunto avesse una Mercedes forte nel roster e non una Mercedes che beccava le battute che invece ha preso nei primi anni. Ora, che lo dica Ecclestone, che è uno dei personaggi che fanno la Formula 1, chiaramente ha un senso diverso rispetto al gossip che è circolato fino all'altro giorno. Però è anche vero che Ecclestone ha sempre questa sua tecnica del divide et impera, soprattutto all'inizio della stagione si diverte a tirare delle bombe per vedere l'effetto che fa, no? Quindi, e già poi aveva comunque provveduto Horner a litigare domenica con Toto Wolff a distanza, certo, su questo concetto. Quindi insomma il buon ex ha capito che c'è aria di fronda, di casino, allora lui ha tirato una bella secchiata di benzina sul fuoco e adesso ce la grattiamo per un po'. Festival di Sanremo all'Arrembaggio. Grazie Flavio. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro Flavio Vanetti. Ma secondo me ci sarà abbastanza da divertirsi in questa stagione in Formula 1, se continua così, più fuori dalla pista che non in pista, dove questo è un altro problema che credo Ecclestone abbia per le mani: il campionato praticamente non esiste, cioè sai già chi lo vince. Poi si tratta di capire se Hamilton, come molto probabile, o il suo compagno di scuderia Rosberg. Adesso ci fermiamo per il giornale radio, poi torniamo, riprendiamo con gli argomenti calcistici, con i gufi, con il Parma, con le manette, se volete con la signorina Pennetta che ha battuto la Sharapova ad Indian Wells, altra notizia bellissima peraltro della notte. Ma d'altra parte Flavia Pennetta ha un conto aperto con la Sharapova e la spazzola spesso. Si ricomincia. Convocati. E si ricomincia, come dice Piccinini, con Raffaele da Milano. Buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo intervenire sul fatto che stasera stanno molti a gufare la Juve. Sì. Ma io voglio dire che non basterà fare solo il gufo. Bisogna avere ancora un altro volatile. E volevo aggiungere la cornacchia. La cornacchia. Sì, la cornacchia, perché ormai questi qua si sono imparati che col gufo non si fa niente. Bisogna aggiungere un altro verso, un verso nuovo. Qual è il verso? Della cornacchia. Me lo faccia. Ma certo. Questo così potrebbe essere sconfitta la Juve. È una squadra fortissima. Ma io spero che stasera il Borussia batte la Juve. Quindi a cornacchia o il gufo o qualunque uccello del malaugurio lei lo appoggia. No, io no, spero che la Juve passi questo turno, e lo credo anche, anche perché se no domani c'è l'Europa League e poi, ragazzi, stiamo a parlare di mercato fino a settembre, qui fino a 31 agosto, vabbè, forse il campionato inizia a 15, poi vediamo con quante squadre, tra abili, arruolati, falliti, ammanettati, eccetera, eccetera. Però stiamo a parlare di mercato, di Mihajlovic, oggi accostato al Milan in ballottaggio con Sarri, e Inzaghi che è ancora in bilico per la centesima volta stagionale, se non batte il Cagliari dicono cacciano via, poi tanto non cacciano via, arriverà a fine stagione, e poi parleremo di Mazzarri alla Roma, di tutte queste cose, Io vi avverto. Allora, a proposito di Europa League, ci sono due voci di ora, di Ventura e Garcia, che sono gli unici allenatori che hanno già parlato alla vigilia delle gare. No, il clima è quello solito, nel senso di una squadra che ha voglia di ritagliarsi uno spazio importante. In questo caso, se centrassimo partita e risultato, sarebbe obiettivamente qualcosa di storico, quindi è evidente che c'è questa grande voglia e c'è anche grande attesa. Lasciate i giocatori tranquilli, perché loro danno tutto sul campo, io mi prendo tutta la colpa, ma lasciateli tranquilli, perché loro hanno bisogno di giocare con la voglia, con l'aiuto, e come ho detto faremo i conti alla fine della stagione, perché sembra che lottiamo per la salvezza e sembra che siamo già fuori di tutto. Dicono anche che Garcia abbia fatto volare le sedie nello spogliatoio urlando con la squadra. Saluto e ringrazio Beppe Sannino, buongiorno mister. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Come può esplodere una squadra come la Roma, forse uno spogliatoio come quello della Roma? Ritrovando, sicuramente Roma non è facile come città, nel senso che è bellissimo stare a Roma, allenare, giocare, però poi dopo ci sono i pro e i contro di quando si va bene e di quando si va meno bene. Sicuramente Garcia è un allenatore preparato anche sotto questi aspetti. Lui ha vissuto, quando è arrivato qui, momenti sempre felici e credo che sarà, sicuramente saprà come poter motivare e come poter infondere quella serenità, questa squadra, poter ritornare a essere quella che era l'anno scorso. Sì, la sensazione è che adesso abbiamo un po' perso la maniglia. E le italiane in Europa League, quella che rischia di più probabilmente è il Torino, perché è probabilmente più debole dello Zenit San Pietroburgo, parte dal 2-0, però anche l'Inter non la vedo benissimo. Ma sono due partite sicuramente difficili. L'Inter, per un motivo che abbiamo visto tutti all'andata, per degli infortuni individuali, però io credo che il Torino sia l'Inter, credo che stasera debba giocarsi un pochettino all'annata, sì. Perché credo che solo questo passaggio sia importante nel proseguo per il futuro. Torino sicuramente ha un cuore grandissimo e ci è abituati anche a fare degli esploit. Quest'anno credo che sia una delle sorprese, insieme a altre due squadre quali Empoli, credo che anche la Sampdoria e il Palermo, credo che siano delle squadre che hanno davvero fatto vedere qualcosa di importante, non partendo con non tanto bene, sì. L'obiettivo del Torino è sicuramente quello di trovarsi in una situazione anche di classifica in Serie A così, ma sicuramente fare un buon anno. Credo che Ventura abbia fatto un ottimo lavoro, è stato facendo, ha trovato quella continuità, certo, adesso certo. Togliamo la partita con la Lazio, che ha incontrato una squadra che credo che sia la più in forma del campionato, però ha fatto un ottimo cammino. Sì, ha fatto anche molto turnover. Poi peraltro io non so che senso l'ha fatto anche il Napoli, un turnover secondo me eccessivo, non so che senso abbia in questo momento delicato della stagione complicarsi la vita con dei cambi di giocatori fondamentali. Mi riferisco a Higuain. Ci sono delle situazioni a volte in una società, in una squadra, dove si parte con sicuramente una squadra titolare che deve raggiungere gli obiettivi, no? E se la strada maestra è quella del primo obiettivo, il campionato, è a buon punto, io credo che un allenatore cerca sempre di dividere poi le competizioni, no? Facendo ruotare un po' tutti i giocatori. A me è successo a Siena, dove sono partito con una squadra del campionato e ho fatto giocare quelli che non giocavano meno in campionato, tutta la Coppa Italia, siamo arrivati quasi fino alla fine, ma è un discorso di una squadra provinciale, avendo a che fare con delle grandissime squadre, io credo che poi alla fine bisogna tenere d'occhio sempre e sempre solo il risultato, perché poi alla fine siamo sempre giudicati per questo. Certo, certo. Mister Sannino, le chiedo ancora una cosa, è il suo pensiero su Inzaghi, cosa ne pensa? Inadeguato o poverino? No, io non vorrei usare nessuna di queste due parole, perché Pippo, non dobbiamo dimenticarlo, è stato un grandissimo calciatore. Certo. Però adesso ha oltrepassato un attimo il confine, passa da quest'altra parte, e come tutti gli allenatori che iniziano questa nuova avventura, sicuramente si trova con delle situazioni che sono diverse da quando eri calciatore. Però io ho sempre detto che la gavetta è importante. Quest'anno Guido Sarri credo che sia il protagonista assoluto, no? Di questa Serie A, per quello che si è dovuto fare, ma per quello che ha dovuto ingoiare anche per tanti anni in categorie non inferiori, che poi credo che il calcio inizia da lì. Però io su Inzaghi non ci butterei la croce addosso, perché mi ricordo tutto quello che si è detto di lui quando si è iniziata la stagione, che era sicuramente la persona adatta, la persona giusta, si fa un calcio col sorriso, ci si allena in un certo modo, però poi alla fine quando i risultati non ci sono è normale tirare addosso all'unica persona responsabile tutto quello che si passa è andato bene, dal sorriso alle sedie che volano. E io su questo aspetto starei dalla parte di Inzaghi, perché gli auguri che gli posso fare è che inizia sempre, non sempre come Guardiola, che può essere un allenatore che poi dopo ha fatto un po' trend, no, per gli altri allenatori. Chiaro. Ma si passa anche attraverso le forche gaudine, dove c'è da pagare pegno, pagare dazio, e credo che una carriera non si rovina con un anno. Certo, fatto in un certo modo. Certo, come disse un giorno, Gigi Cagni a proposito di Mancini, prova a dirgli di andare a allenare a Catanzaro. Grazie Beppe Sannino. Io ringrazio voi. Grazie. Buongiorno, grazie. Buon lavoro, mister. Allora restituisco subito la linea a Marta Cagnola per gli aggiornamenti su Tunisi. Sì Carlo, è finito il blitz delle forze di sicurezza al Museo del Bardo a Tunisi, in Tunisia, uccisi due terroristi e un agente, sarebbero 8 le vittime per ora confermate, 9 secondo altre fonti, 8 turisti e una vittima tunisina. L'ADN Kronos, solo l'agenzia ADN Kronos, parla della presenza di un italiano tra i turisti uccisi e cita fonti della comunità italiana, questo però per ora solo l'agenzia ADN Kronos. Gli italiani rimasti coinvolti nell'attacco al Museo del Bardo a Tunisi sono turisti ospiti della nave della Costa Crociere, la Costa Fascinosa, lo conferma la stessa compagnia che annuncia sta monitorando attentamente la situazione a Tunisi e ha richiamato sulla nave tutti 3.161 passeggeri in sosta nella capitale tunisina. Si attendono appunto notizie sulle nazionalità e le identità delle persone che sono rimaste uccise in questo attacco terroristico che, dicevamo qualche minuto fa, si è concluso con un blitz, uccisi due terroristi e un agente. Per ora è tutto. Grazie Marta, io torno ai convocati prima di aprire il capitolo Parma. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno, è difficile intervenire dopo queste notizie. Lo so, un po' fatica. Andiamo non in sacco nel profano. Allora, no, io volevo parlare della crisi del Milan, no? E volevo dire questo: se l'intenzione è di acquisire i servizi di Sarri, io credo che Sarri non sia assolutamente un allenatore da Milan con un presidente come Berlusconi, per tre motivi fondamentali: la presenza fisica, il fatto che fumi e il fatto che abbia una certa età. Cosa voglio dire? Qui praticamente si rischia quindi di sono, parlare, non sono valutazioni tecniche, ma sono valutazioni estetico comportamentali. Non gli verrebbe perdonato nulla, no? Perché si veste male, sì. Si veste male. E quello un vestito si può pure comprare. Vabbè, però diciamo che e poi tra l'altro noi non dimentichiamo una cosa, l'esperienza di Orrico all'Inter, no? Cioè tu, Milan, sei involuto nel gioco, è diventato da squadra corale, squadra gioco alla brasiliana o all'olandese, che dir si voglia, pian piano negli anni è sempre più italiana, palla avanti e pedalare puntando sui singoli. Allora, se vieni un organizzatore di gioco come Sarri, come Orrico all'Inter, l'Inter è sempre stata una squadra che ho giocato all'italiana, cioè non si è mai visto un gioco corale, cioè, si è visto un gioco dove puntavi sul campione di turno di quel momento, sì, sul colpo di classe, ecco, ma non c'era il gioco corale. Arrivo Rico, che ha una concezione del calcio completamente diversa, più alla Sacchi, diciamo, ha trovato un muro contro un muro. Ma era un'epoca di mode, no? Era di moda allora lo zonismo sull'onda di Sacchi, arrivò Maifredi alla Juventus, Orrico all'Inter, si ricorda quella perché, stagione? Perché l'Inter, lui veniva dal metodo Trapattoni, no? Che era un po' il gioco all'italiana. L'Inter non è mai stato nella sua storia, mia memoria, no? Una squadra che privilegia il gioco ma solo il risultato. Allora cosa succede? Se viene Sarri al Milan con un gioco con i giocatori che amminano adesso, dove può semplicemente giocare. Paolo, secondo me c'è un equivoco. A parte il fatto che secondo me si può sempre cambiare pelle, poi dipende dal sarto, come piaceva dire a Berlusconi, e dalla stoffa che ha a disposizione. Il problema è che secondo me in questo momento le chiacchiere che si fanno intorno al Milan sono grosso modo fumo, perché il nodo cruciale è capire dove andrà questa società, cosa accadrà nel destino di questa società, se continuerà così com'è con Berlusconi, quali saranno i giocatori a disposizione. Diventa quasi una, così, una semplice suggestione quella di parlare del futuro allenatore. Oggi è spuntata anche la voce di Mihajlovic, peraltro da una fonte molto accreditata come l'amico Gianluca Di Marzio, che salutiamo. Però mi sembra quasi inutile capire cosa succederà nel futuro del Milan sul campo come allenatore. Quanti saranno questi giocatori, i giocatori di oggi, a rimanere al Milan? Io credo pochi. Magari ci sarà la rivoluzione, magari arriveranno capitali stranieri, sono tutte cose ancora da decifrare. La realtà è che a meno di cataclismi Inzaghi andrà avanti a motore spento fino alla fine di una fallimentare stagione, probabilmente la peggiore dell'era Berlusconi. Parma? Ok. Non può e non deve finire così, perché in Italia è ora che chi sbaglia paghi, e paghi seriamente. Quindi, io lo dico da due giorni e voglio che sia ben chiaro, questa situazione può finire solo in un modo, con il tintinnare di manette. Perché quello che stiamo facendo lo stiamo facendo con criterio ed è stato valutato nella minima percentuale di errore che ci potrà essere da qui. Voi avete in mente sempre il 16, io dico da qui ai prossimi 10 anni. Ad indagine, sottoposte a cautela, rispondono di reati diversi che vanno dal concorso in peculato all'associazione a delinquere, al riciclaggio, il reimpiego, la frode informatica e per la verità, per la prima volta applichiamo la nuova figura di reato dell'autoriciclaggio. Giocare non è ora, è da novembre che è difficile giocare, per tutta una serie di motivazioni stiamo andando avanti, per le persone che abbiamo dietro, ma sarebbe anche, verrebbe voglia veramente di chiudere tutto una volta per tutte, perché sta diventando una farsa, cioè dico questo con tristezza obiettivamente, perché è tutto uno schifo. Ma magari la musica del padrino è tanto, è tanta roba, però va bene perché abbiamo sentito Manenti, progetto a lungo termine, poi abbiamo sentito il procuratore di Roma di oggi che spiegava l'esecuzione dell'arresto dello pseudo presidente del Parma e di altre persone, e poi Lucarelli. Gabriele Maio, stadiotardini.it. Ciao. Allora, ciao. Racconta. Dimmi innanzitutto una cosa: domenica il Parma gioca o no? Questa è una bella domanda. Io credo che sia abbastanza complicato per motivi di carattere burocratico e logistico, nel senso chi potrà firmare la domanda da rivolgere al comune di Parma, proprietario dello stadio che l'aveva requisito tra virgolette al Parma FC nei giorni scorsi, chi potrà firmare questa domanda per riavere lo stadio, per averlo in questa occasione? Ovviamente non il legale rappresentante, il legale ovviamente si fa per dire vista la giornata di oggi. Che ovviamente credo sia impossibilitato a espletare pratiche di questo tipo, e ovviamente potrà essere il curatore fallimentare, dando per scontato, arrivati a questo punto, che domani possa esserci nella famosa udienza la sentenza definitiva del fallimento del Parma. Curatore che poi dovrà chiedere successivamente un esercizio provvisorio, che in tanti danno per scontato, a partire dalla Lega Calcio, per via di quel famoso progetto dei 5 milioni da consegnargli per consentire al Parma di chiudere la stagione e ovviamente a loro di non avere rogne con le TV broadcaster. E logicamente però questo curatore dovrà rispettare, immagino io, dei tempi tecnici. Allora, domani è giovedì, la partita è domenica, ipotizziamo che facendo proprio le corse, dal momento che tutto è predisposto e tutto è pronto, domani possa arrivare il fallimento con la nomina del curatore, non credo che simultaneamente ci possa anche essere la richiesta e la relativa concessione da parte del tribunale fallimentare dell'esercizio provvisorio, condizio sine qua non per il Parma di chiudere la stagione e di conseguenza di poter disputare anche la prossima partita. Sì. Nell'improbabile caso, perché come dicevo mi sembra che la tavola sia già da tempo apparecchiata, nell'improbabile caso il curatore decidesse di non chiedere l'esercizio provvisorio, il Parma a quel punto non potrebbe più andare in campo da quel momento lì in poi, perché le norme federali sono quindi molto diciamo che chiare. O si fanno le corse e domenica si gioca in maniera quasi miracolosa, oppure Parma è fuori, per farla breve. Per questa partita, logicamente. Cioè il punto determinante è la concessione di questo esercizio provvisorio. Se viene concesso l'esercizio provvisorio, il Parma può avere anche teoricamente un futuro, o perlomeno ce l'ha a breve termine fino alla fine di questa stagione, che è poi quello che, come dicevo, interessa alle istituzioni federali. Chiaro. A noi a Parma potrebbe interessare, grazie al cosiddetto fallimento pilotato, perché praticamente il procedimento è lo stesso dell'anno scorso del Bari, per capirci, di arrivare alla fine della stagione e poi ripartire dalla Serie B l'anno prossimo, però l'altro scoglio imponente, diciamo così, è qualcuno che si faccia carico dei debiti sportivi che sono quantificati in circa 50 milioni. Sì, quelli che Manenti, secondo l'accusa, avrebbe tentato goffamente di coprire con una truffa legata alle carte di credito. Questo secondo l'accusa, è una vicenda complicata da spiegare, ma che troverete su tutti i giornali. Grazie Gabriele, ci sentiamo presto. Grazie a voi. Stavolta non ho detto niente di sessista, spero che la cagnola non... No, non avrà nulla da eccepire. Un saluto anche a lei. Grazie Gabriele. Devo chiudere? Mirko da Bologna. Certo, Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie per l'attesa, mi dica. Niente. Niente, io da juventino necessito che ci siano gufi stasera, anche perché nell'unico periodo, io ho 30 anni, gufi e cornacchie, tutti. Esatto, l'unico periodo che non sentivo gufi o che c'erano squadre che ci ritenevano, per tifosi che ci ritenevano simpatici, è perché vincevano gli altri. E poi in chiusura voglio ricordare una cosa ai tifosi, soprattutto visto che ne ho sentiti parlare di Napoli e Roma. Tra un mesetto più o meno, il signor Padoin ha vinto uno scudetto in meno dei loro due messi assieme. Insomma. Questa è cattiva, ma gliela posso abbondantemente lasciare, attendendo tutte le repliche del caso per domani, quando la Juve avrà giocato e gli juventini saranno felici, oppure saranno felici gufi e cornacchie, questo lo scopriremo vivendo. Poi io lo ripeto, spero che di poter parlare di Champions League con l'unica rappresentante italiana in corsa ancora per un po', altrimenti ve lo dico subito, calcio mercato a bomba. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, Daniele Buonamici in redazione. Va in onda ora uno speciale dedicato a quanto sta succedendo a Tunisi, quindi non il solito appuntamento con Enrico Ruggeri, ma appunto questo speciale che vi consiglio di ascoltare. Ciao. Gufi, state a casa.